Se vuoi fare sport, come ti può aiutare l'ufficio sport? All'ufficio sport non ti puoi iscrivere ai corsi sportivi. Per iscriverti ai corsi sportivi devi rivolgerti alle società sportive che li organizzano. L'ufficio sport ha una pagina internet con molte informazioni utili. Il link è qui sotto. Nella pagina internet puoi vedere i corsi sportivi che ci sono presso gli impianti e le palestre del quartiere. Se vuoi vedere i giorni e gli orari del corso sportivo che ti interessa e vedere qual è la società sportiva che lo organizza, devi guardare il documento più recente che si chiama Schemi di assegnazione. Trovi questo documento nella stessa pagina internet. Il numero di telefono delle società sportive è nella stessa pagina internet.